Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro undicesimo, versi 1-345. Il poeta Orfeo, che avendo perduto per sempre Euridice, sposa adorata, rifugge le donne, ha appena finito di cantare all'attonita natura circostante la favola di Venere e Adone, quando le Menadi, furiose donne di Tracia, il paese di Ciconi. Mentre Orfeo, poeta di Tracia, cantando così seduceva le selve e le belve e smuoveva le pietre, che cosa succede? Succede che, come pazze, le donne dei Ciconi, il seno coperto di pelli ferine, dal crinale d'un colle lo vedono che è lì che, toccando le corde, le accorda il canto che canta. Una allora, lasciando garrire i capelli alla brezza, sbraita: eccolo chi ci disprezza, e gli scaraventa in faccia un tirso, perché la smetta con quelle canzoni apollinee. Ma il tirso, fasciato di foglie, non lascia che un piccolo livido. Un'altra gli tira una pietra, ma quella, ancora volando, si arrende agli accordi perfetti della voce e della lira, e quasi a chieder perdono per la sua forsennata arroganza, gli rotola i piedi. Però la battaglia in furia oramai senza quartiere, su tutto imperversa, le rinni demente. A dir vero, tutte le armi si sarebbero intenerite a quel canto, ma il folle baccano, i flauti torti di Frigia, i tamburelli e gli schiocchi e le urla delle baccanti sommergono le melodie della cetra, e i sassi a quel punto si arrossano tutti del sangue di un Orfeo che più non si sente. Per cominciare, le Menadi sterminan frotte di uccelli e di serpi e di bestie feroci, tutte ancora stregate dalla sua voce, a conferma dei trionfi del nostro poeta. Poi, con le mani che grondano sangue, si avventano tutte insieme su lui, come uccelli che han visto un rapace notturno svolazzare accecato dal sole. E lui, se vogliamo, il poeta, è il cervo accerchiato dai cani che all'alba lo sbraneranno nell'arena, e tutte insieme, bersagliandolo con poco adatti tirsi verdi di foglioline, gli si avventano contro quelle. Certe gli gettano zolle, altre rami strappati dagli alberi, altre ancora ciottoli. E tanto perché non mancassero armi alla furia, ecco passare dei buoi che tiran l'aratro, affondando il vomere, e lì intorno, robusti e sudati, contadini che vangano per procurarsi di che sopravvivere, i quali, alla vista dell'orda, mollano tutti gli attrezzi e scappano, disseminando i campi rimasti deserti di lunghe zappe e sarchi e sarchietti e rastrelli pesanti. Le pazze corrono a prenderli, sbranano i buoi che le puntano con le corna e si riprecipitano a sbarazzarsi di Orfeo. E lui, che tendendo le braccia, per la prima volta parole getta al vento, una voce che più non incanta nessuno, lo ammazzano le sacrileghe. E da quella bocca, ascoltata perfino dai sassi, capita perfino da bestie feroci, in lacrime, ai venti, grandio, si abbandona il sospiro dell'anima. Ti piangono passeri tristi, ti piangono turbe di belve, ti piangono sassi, le selve che per sentirti cantare ti venivano dietro, ti piangono, e gli alberi spogli di foglie si rasano a lutto, raccontano che a furia di piangere i fiumi si gonfiassero e naiadi e driadi, raccontano, si rivestissero di mussola nera e lasciassero i capelli arruffarsi a casaccio. Sparpagliate le membra, tu, Ebro, accogli la testa e la cetra, che mentre, miracolo, scorrono con la corrente del fiume, la cetra accenna un motivo triste, che triste rimormora la lingua morta, e le sponde rimandano l'eco, tristissime. Finalmente, lasciato il fiume nazionale, arrivano al mare e si arenano sulla spiaggia di Lesbo, sotto Metimna. Un serpente feroce si getta contro quella testa deposta su rena straniera, contro quei capelli che grondan rugiada. Ma alla buon'ora spunta Febo e intercetta la bestia sul punto di mordere e subito le congela la bocca così com'è spalancata, un crepaccio di pietra. L'ombra va sottoterra, riconosce tutti quei posti che aveva già visto e cercandola per i campi delle anime buone ritrova Euridice e la stringe fra braccia pazze d'amore. Ora passeggiano lì, sotto braccio alle volte lei davanti, lui dietro, alle volte Orfeo va davanti e si gira a guardarla, la sua Euridice, senza più paura di perderla. Bacco stesso però non ammette che il crimine resti impunito e, desolato com'è per la perdita del cantore dei suoi misteri, incatena nei boschi le donne di Tracia che hanno assistito allo scempio, avviticchiandole al suolo, e ognuna di loro nel punto dove la acciuffa prolunga le dita dei piedi, ficcandole a fondo nel duro terreno. Come l'uccello che posa le zampette sopra la rete piazzata dall'uccellatore con astuzia e sentendosi in trappola si dibatte e con quel dibattersi serra le maglie, così, avvertendosi abbarbicata per terra, la singola menade perde la testa e fa tanto di fuggire. Niente. Tenaci, le radici la frenano e quella, agitandosi, s'imprigiona. A un bel cercare che fine abbiano fatto le dita e le unghie dei piedi, corteccia le monta per gli affusolati polpacci e, disperata, tentando di picchiarsi una coscia, non picchia che legno. Anche i seni le sono diventati di legno, le spalle diventate di legno e le braccia che tende, saresti indotto a pensarle autentici rami, senza sbagliare a pensarlo. Ma questo a Bacco non basta. Abbandona lo stesso paese e con un codazzo un po' meglio guadagna i vigneti del suo tmolo e il Pattolo, fiume peraltro a quel tempo non tanto ricco d'oro e così concupito per le sue sabbie preziose. Lì raduna il suo solito crocchio di baccanti e di satiri, ma Sileno non c'è. Brancolante per il vino e per l'età, dei contadini di Frigia l'avevan raccolto e tradotto in catene di fiori a Re Mida, a sua volta iniziato alle orge rituali di Bacco da Orfeo di Tracia e da Eumolpo di Atene. Appena riconosciuto il vecchio amico e compagno di culto, in onore dell'ospite, il re, felicissimo, ha indetto una festa coi fiocchi per 10 giorni e per notti altrettante. Era già l'undicesima volta che Lucifero aveva guidato per il cielo il fantastico esercito delle stelle, quando attraverso la Lidia il re riconduce Sileno al suo giovane allievo e il dio gli propone, felice di aver ritrovato il maestro, di scegliersi il premio che vuole, proposta eccellente ma a rischio. E quello, approfittandone malissimo, dice: procura che tutte le cose che tocco col corpo diventino oro. Desiderio che Bacco esaudisce assegnandogli quel privilegio pernicioso, anche se gli rincresce, che la scelta non sia granché. L'eroe Berecinzio, Mida, se ne va compiaciuto a sproposito e per accertarsi del dono tocca tutto quello che trova. Non credendo ai suoi occhi, lui stacca da un ramo basso d'un leccio una frasca verdissima e la frasca diventa d'oro. Raccoglie un sasso da terra e quello scolora in oro. Tocco una zolla e al contatto si compatta in lingotto la zolla. Coglie spighe secche di cereale e non miete oro. Ha in mano un frutto staccato da un albero e sembra gliel'abbiano regalato le Esperidi. Sfiora uno stipite coi polpastrelli e lo stipite sprigiona raggi, diresti. Niente meno, quando si lava le mani in acqua di fonte, l'acqua che scivola via potrebbe confondere Danae. Ma non sa contenere le brame, anzi si immagina tutto d'oro e vuole godersela. La servitù gli apparecchia la tavola caricandogliela di portate e di pane tostato, però purtroppo non può toccare i doni di Cerere, che all'istante i doni di Cerere si irrigidiscono e quando tenta di mettere i denti su qualche ghiotta vivanda, al tocco del dente si lamina d'oro rosso la ghiotta vivanda. Mescola all'acqua il vino di Bacco Benefattore e nella bocca aperta cola oro fuso. Stravolto da quel male strano, ricchissimo e miserabile insieme, rifugge la sua fortuna e detesta i suoi desideri. L'abbondanza non seda la fame, la sete gli secca la gola e la brucia, e l'oro, sì, l'oro, lo tortura come si merita. Allora, levando al cielo le mani e le braccia che splendono, perdonami, padre Bacco, ho peccato, fa, ma tu fammi la carità di salvarmi da questo lussuoso disastro. Gli dèi sono buoni. A chi ammette l'errore, Dio Bacco condona quanto concesso per stare ai patti e lo rende a se stesso. Perché tu non rimanga impastato nell'oro delle tue brame. Va al fiume che corre rasente, la grande Sardi, gli dice, e rimontalo contro il verso della corrente, fra i monti scoscesi, finché non raggiungi la sorgente. E lì, dove il fiotto esce schiumando più forte e copioso, mettici sotto il corpo con tutta la testa e, lavandoli, lava la colpa. Il re ubbidisce e si mette sotto l'acqua. Il potere dell'oro tinge l'acqua e dal corpo dell'uomo travasa nella corrente. Avendo assorbito il succo dell'antica vena, oggi ancora le sponde induriscono, pallide di zolle che sudano oro. Schifato dalla ricchezza, lui, Mida, ora adora le selve, i campi e le grotte, soggiorno abituale di Pan. Ma è rimasto il coglione di sempre e per la testa gli passano le insensatezze che al solito non portano altro che guai. Affacciato sull'immensità del mare, il monte Tmolo svetta altissimo e spalma le sue larghe pendici da un lato verso Sardi, dal lato opposto verso la piccola Ipepa. È lì che Pan esibiva il suo talento canoro alle ninfe, accompagnando le arie con una zampugna. E si permise di irridere il repertorio di Apollo, affidando al verdetto di Tmolo l'esito dell'impari gara. Si siede il vecchio giudice sulla sua montagna e si stura gli orecchi dagli alberi. Solo la chioma blu della quercia si tiene in testa e le ghiande che gli pendono sopra le tempie. Rivolto al dio delle pecore, fa: l'arbitro è pronto, coraggio. E quello attacca a suonare sul suo flauto a canne e il motivo rozzissimo incanta Remida, caso vuole seduto vicino al cantante. Dopodiché Monte Tmolo si gira a incontrare con lo sguardo di Febo. Tutto il bosco si gira con lui. Il dio che sfiora la terra con la porpora tiria del manto, coronata la testa bionda dall'oro, colto in Parnaso, nella mano sinistra alla cetra incrostata di pietre e d'avorio delle Indie, nell'altra mano il plettro. Basta vederlo per capire l'artista che è. il pollice del maestro, ecco che tocca le corde, ma con tale dolcezza che Tmolo a Pan suggerisce di ammettere che la cetra è meglio del piffero. Il giudizio del Santo Monte lo condividono tutti. Tutti, ma Mida, lui solo, è lì che contesta e denuncia l'ingiustizia. Allora il dio di Delo non tollera più che un orecchio tanto volgare conservi la forma umana. Glieli tira entrambi per lungo, li inzeppa di peli grigi, alla base li rende girevoli che gli ruotino in tutti i sensi. Il resto può rimanere da uomo. Il castigo riguarda quella parte e basta. Si merita per cappello le orecchie dell'asino. Non sapendo come nascondere quella vergogna scurrile, lui prova a coprirsi la testa con un turbante di porpora. Ma il servo, che di mestiere gli taglia la lunga zazzera, se ne accorge, non osa però svelare quella schifezza, sebbene non veda l'ora di raccontarla a tutti. Però, non riuscendo a star zitto, quatto quatto fa un buco per terra e con un filo di voce sussurra al terreno scavato che orecchi ha visto in testa al padrone. Poi seppellisce la traccia della sua voce sotto lo sterro e una volta nascosto il buco come si deve, che fa? Se la squaglia. Ma comincia a spuntare sul posto una macchia di tremule canne che in capo a un anno, raggiunto il pieno rigoglio, tradisce il povero servo. Mossa dalla brezza, la macchia ripete parole sepolte, mettendo in piazza che orecchi ha in testa il padrone. Vendicatosi, il figlio di mamma Latona abbandona l'otmolo e vola nell'aria chiara per fermarsi al di qua dello stretto di Elle, Elle Sponto, sui campi di Laomedonte, a destra di Capo Sigeo, a sinistra dello scosceso Reteo, c'è un altare antico votato al padrone dei tuoni, ed Apollo scorge di lassù Laomedonte, intento ad erigere le mura di Troia, impresa che procede fra spaventose difficoltà, non senza richiedere un monte di soldi. Allora, d'accordo col dio del tridente del fondo del mare, travestito da uomo, mette in cantiere le mura di cinta per il re di Frigia, fissata in oro la loro parcella. L'opera è fatta, ma il re sostiene che lui del compenso non sa nulla e cumula, è il massimo, lo spergiuro sulla menzogna. «Questa la paghi», dice il sovrano dei mari, e rovescia tutte le acque sul lido di quella tirchia di Troia. Fa della regione una specie di mare, si porta via tutte le risorse dei contadini, annega i campi di onde. Ma non gli basta il castigo. Il re dovrà dare in sposa la figlia a un mostro marino. Incatenata a uno scoglio, la libera Ercole, il quale pretende i cavalli promessigli in contropartita e, come se li vede negati, prende d'assalto e conquista i bastioni di Troia due volte spergiura. Uno di quell'esercito, Telamone, non se ne va a mani vuote, si prende Esione, ma suo fratello, Peleo, sposata una dea, era già famoso e vantava non meno del nonno suo suocero, perché fra i nipoti di Giove lui non era il solo, ma il solo ad avere per moglie una dea. Il vecchio Proteo a Teti aveva pur detto: «Maritati, dea dell'onda, e madre sarai di chi farà imprese più grandi da grande di quelle del padre, e sarà più famoso di lui». Giove allora, perché non ci fosse al mondo nessuno più grande di sé, pur covando nel cuore una fiamma tutt'altro che tiepida, fece a meno di prendersi in moglie Teti, la ninfa dell'acqua, e dispose lo rimpiazzasse suo nipote, figlio di Eaco, portandosi a letto lui la verginella marina. C'è in Tessaglia un golfo falcato che nell'arco delle sue braccia circoscrive uno spazio che, fosse un po' più profondo, sarebbe un porto, ma l'acqua copre appena il fondale di sabbia. La riva è abbastanza compatta per non conservare le impronte dei piedi o frenare chi marcia o impacciarlo con trappole d'alghe. C'è a ridosso una macchia di mirti con due colori di bacche, in mezzo una grotta, chissà se scavata dalla natura o dall'arte dell'uomo, propendo per l'arte, dove tu, Teti, venivi spesso a cavallo d'un delfino con tanto di briglie, tutta nuda. Peleo, una volta che eri lì, sprofondata nel sonno, ti sorprende e, siccome recalcitri alle sue istanze, fa tanto di usarti violenza, aggrappandosi con ambo le braccia al tuo collo, che se, ricorrendo alle solite tecniche, tu 100 volte non ti fossi cambiata di forma, avrebbe ottenuto lo scopo. Ma se tu diventavi un volatile, Peleo strizzava il volatile. Eri un albero grosso, lui si incollava all'albero grosso. La terza forma fu quella d'una tigre pezzata. Sgomento, questa volta il figlio di Eaco ti toglie le mani di dosso. Allora si mette a pregare gli dèi del mare, versando vino sulle acque e viscere d'agnello e fumo d'incenso, finché non sbuca dal fondo dell'abisso il vate di Carpato. E, figlio di Eaco, gli dice, avrai gli amplessi che vuoi. Basta che quando lei torna a dormire in grotta, la leghi stretta ma stretta, senza lasciarle il tempo di accorgersene. E se si traveste in 100 figure, non ti confondere. Tu stringi ma stringi, finché non riprende la forma di prima. Ciò detto, Proteo di Carpato rituffa nell'acqua la faccia e lascia che un'onda si porti le sue parole finali. Sporto in avanti, il titano toccava con il timone inclinato i mari dell'Occidente e la bella Nereide esce dall'acqua e si accuccia nella sua solita grotta. Non si era ancora infilato nel suo corpo di vergine Peleo che quella comincia a trascorrere di forma in forma finché non constata d'essere tutta legata, sbracciate le braccia. Allora piagnucola, senza l'aiuto del cielo tu non vincevi, e ritorna Teti e si arrende. Allora l'eroe la abbraccia, realizza il suo sogno e la riempie di Achille. Benedetto nel figlio, marito felice, tutto ti andava per il meglio, Peleo, se tu non avessi commesso il delitto di sgozzare fuoco. Macchiato del sangue del tuo fratellastro, cacciato di casa, trovasti ricetto in terra Trachinia. Lì, senza minacce, senza massacri, regnava Ceice, che aveva sul viso il fulgore di suo padre, Lucifero, stella del mattino, peraltro in quel tempo triste irriconoscibilmente, perché piangeva la perdita di suo fratello. Arrivato a Trachine, sfinito di fatica e d'angoscia, il figlio di Eaco entra in città con pochi compagni, lasciati in una valle all'ombra, ma dai bastioni non troppo lontani, i greggi e gli armenti che si era portato dietro. Una volta ottenuto il permesso di accedere alla reggia, tendendo un bel ramoscello d'ulivo, supplica e spiega chi è, di chi figlio, nasconde soltanto il delitto commesso e il motivo della sua fuga. Chiede asilo in città, se no in campagna. Con aria affabile, il re dei Trachini si esprime così. Se è per questo, qui anche il comune straniero si trova benissimo, Peleo. Noi siamo molto ospitali. Aggiunge a questo argomenti rilevanti, un nome importante, un Giove per nonno. Non perdere tempo in suppliche, è tuo tutto quello che vuoi. Di qualsiasi cosa tu veda, sarai coproprietario. Ah, se tu potessi vedere di meglio. E si mette a piangere. Peleo e i suoi compagni gli chiedono la causa di tanto dolore e lui risponde così: «Magari voi, quell'uccello di rapina, che terrorizza tutti gli altri uccelli, pensate abbia sempre avuto le penne? Era un uomo, e fino da allora, talmente ostinato è il carattere, bellicoso, violento, sempre pronto alla rissa, di nome Dedalione, figlio anche lui dell'astro che chiama l'aurora ed esce dal cielo per ultimo. Io adoro la pace e mi son sempre studiato di mantenerla per me e per la famiglia. A mio fratello piaceva la guerra e sottometteva popoli e re con lo stesso coraggio che oggi adopera per atterrire colombe di Tisbe. Aveva una figlia, Chione, che bella com'era, bellissima. Fin dai 14 aveva un mucchio di pretendenti. Un giorno che Febo e il figlio di Maia tornavano, uno dalla sua Delfi, l'altro dal monte Cilene, successe che la vedessero insieme e insieme se ne invaghissero. Differisce alla notte Apollo il progetto di farsela, l'altro non perde tempo e con la bacchetta del sonno le tocca la bocca. Al magico tocco la Vergine si addormenta e il Dio la violenta. La notte tempesta il cielo di stelle e Febo, vestito da vecchia, riabusa dell'abusato. Quando la gravidanza ha compiuto il suo ciclo, viene al mondo, astuto rampollo del Dio con le alucce ai piedi, Autolico, molto versato in qualsiasi tipo di truffa, capace sempre di venderti il bianco per nero ed il nero per bianco, degnissimo erede della perizia paterna. Da Febo nasce, la madre, due gemelli, ha partorito un Filammone, fantastico nel canto e nella chitarra. Ma d'aver due gemelli, di essere piaciuta a due dei di un padre potente ed un astro del cielo per nonno, la povera Chione che se ne fa? Non fa brutti scherzi anche il successo? Ha molti, di certo a lei, che pretese di essere meglio di Diana e ne contestava la bellezza. Inferocita dalla rabbia, vedrai, disse quella, quanto è bello quello che faccio. E che fa? Tende l'arco in un attimo scocca una freccia e con la punta trapassa una lingua che se lo merita. Tace la lingua, non le escono più né parole né voce, vorrebbe, ma in un fiotto di sangue le fugge la vita. E io, ma che strazio ho provato nel mio cuore di zio, io ma quante non gliene ho dette al mio caro fratello per consolarlo. Mi ascoltava non più di quanto una scogliera ascolti il brusio del mare e piangeva la figlia perduta e piangeva. Poi quando la vide sul rogo che bruciava, ben quattro volte voleva gettarsi nel fuoco, quattro volte lo abbiamo tenuto. Allora lui si scatena per i campi, come un torello che a testa bassa galoppa crivellato dai calabroni nel vuoto della campagna, e pareva correr già più di un uomo, pareva che già ai piedi avesse le ali, e chi lo raggiunge più? In preda alla smania di uccidersi, guadagna la cima del monte Parnaso. Ma Apollo ha pietà, e quando Dedalione si precipita giù dalla roccia, ne fa un uccello, e apponendogli ali improvvise, lo regge in aria, lo dota di un becco adunco, di un ghiaccio uncinate, e con la violenza di sempre, d'una forza maggiore del corpo. Attualmente è uno sparviero, odiato da tutti, su tutti gli uccelli infierisce e così torturandosi tutti tortura.